GR24, il sole 24 ore. Botte lacrimogeni, apre il cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, le ruspe sotto scorta battono le barricate dei Notav, una trentina i feriti. Napolitano su Ustica, dopo 31 anni è ora di rimuovere ombre ed ambiguità. A 10 anni dall'omicidio di Serena Mollicone ci sono 5 indagati, fra loro anche l'ex fidanzato e la madre. Maturità, questa mattina il terzo scritto, il quizzone, considerato dai ragazzi la prova più difficile. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. È stata dunque una mattinata di scontri e lacrimogeni in Val di Susa, dove il popolo Notav continua ad ostacolare l'inizio dei lavori. Ma torniamo a collegarci in diretta con Andrea Viali per sentire qual è la situazione. Andrea? Sì, dunque, con un blitz scattato attorno alle 8 di questa mattina è stato rimosso il presidio contro l'alta velocità nel cantiere di Maddalena di Chiomonte in Val di Susa. All'operazione hanno partecipato oltre 2.000 uomini delle forze dell'ordine che, come dicevi, si sono scontrati con i manifestanti Notav. Ci sono stati lanci di lacrimogeni, sassi, petardi, qualche manganellata. Alla fine si contano una trentina di feriti lievi tra le forze dell'ordine, feriti anche tra i manifestanti, molti dei quali dopo gli scontri sono fuggiti nei boschi circostanti, e in questi minuti alcuni di loro comunque stanno ancora bloccando il traffico in alcune strade della zona. L'area del cantiere invece è stata già riconsegnata alla ditta che dovrà riprendere i lavori dell'alta velocità, riprenderli entro fine mese per non perdere i contributi dell'Unione Europea. Per questo motivo l'intervento delle forze dell'ordine era stato preannunciato nei giorni scorsi dal ministro degli interni Maroni. Lo Stato non può assolutamente arrendersi di fronte a dei protestatari, è stato il commento stamattina del ministro dei trasporti Matteoli dopo il blitz delle forze dell'ordine. Abbiamo perso un round ma non la guerra, ha detto invece uno dei leader del movimento Notav, Alberto Perino, sentiamolo. Abbiamo perso il round, ci hanno sbaraccati, hanno conquistato la postazione, ci hanno riempiti di lacrimoni e adesso stiamo cercando di sbaraccare quello che possiamo. Quindi possiamo dire che in questo momento c'è una tregua? Dopo che hanno vinto c'è sempre una tregua. Non vi date per sconfitti però? Noi non siamo mai sconfitti. Abbiamo perso il primo round, ma lo sapevamo già che lo perdevamo. Cioè, voglio dire, noi speravamo di riuscire a resistere fino a mezzogiorno, abbiamo resistito fino alle 10, ma davanti a un lancio di lacrimogeni come c'è stato non si poteva resistere di più. È stato forse più cruento di quanto vi aspettavate quello che è successo stamattina? Più cattivo, diciamo, perché i lacrimogeni fanno male. Ci sono stati dei feriti anche tra le forze dell'ordine, oltre che tra di voi? Tutti quelli che ho visto io feriti tra le forze dell'ordine avevano dei problemi alle caviglie, il che non è mai perché uno lo picchi, ma perché ti sei presa una storpa. Andrea? Sì, ecco, è tutto, Piera, la linea può tornare a Milano. Grazie, grazie ad Andrea Viali. Dunque, un paese civile e democratico come l'Italia non può permettersi la permanenza di un presidio come quello del villaggio Maddalena al di fuori della legalità, così il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. La TAV è un'opera fondamentale, ha detto ancora la Marcegaglia, a margine dell'assemblea di Federchimica Milano, per lo sviluppo dell'Europa e un'infrastruttura importante per mantenere collegamenti italiani a livello internazionale. Per questo è fondamentale che i cantieri partano entro fine mese per non perdere la quota di finanziamento europeo. E Marco Ponti, docente di economia dei trasporti al Politecnico di Milano, stamattina ai microfoni di Oscar Giannino ha invece negato che l'alta velocità in quella zona possa essere un investimento prioritario. Ma da qui a definirlo prioritario così ne passa, perché comunque il traffico, la linea attuale porta 3 milioni di tonnellate all'anno. Ne può portare 20 milioni, il traffico potrà ricominciare a salire, finora è sempre sceso, anche quello autostradale su quella direttrice, perché con quella parte della Francia scambiamo pochissimo. Ora potrà anche salire, ma definirla prioritario se la linea attuale che esiste già porta senza problemi 20 milioni di tonnellate e secondo molti studiosi ne potrebbe portare assai di più. Essendoci pochissimi soldi pubblici mi sembra ardito, soprattutto perché poi da quell'investimento i ritorni finanziari sono nulli, cioè lo devono pagare tutti i contribuenti, quindi se no le tariffe vanno in paradiso. Quindi una delle osservazioni da fare è: non è che perdiamo come soldi, se non si fa perdiamo i soldi della Commissione Europea, guadagniamo i soldi che i contribuenti dovrebbero metterci, perché le stime del progetto precedente erano 22 miliardi. Se l'Europa ne metteva poi 2 era un miracolo. Questo progetto costa molto meno, forse se ne mette sempre 2 arriviamo al 15%, al 20%, qualcosa di quest'ordine, ma tutti gli altri li mettono i contribuenti. Verso la manovra economica di giovedì, ancora aperto il dibattito politico, in diretta Elisabetta Fiorito. Sì, non piace ai ministri PDL la critica del sottosegretario Guido Crosetto sulla manovra economica firmata da Giulio Tremonti, che dovrebbe essere varata dal Consiglio dei Ministri giovedì e che Crosetto ha definito da psichiatra. Il ministro dell'economia gode della stima e della gratitudine di tutti noi, spiega quello dell'attuazione del programma di governo Gianfranco Rotondi. La manovra non è blindata e sarà collegiale, valuteremo insieme il contenuto, assicura il ministro degli esteri Franco Frattini. Mentre il titolare dello sviluppo economico Paolo Romani commenta così, sentiamo. C'è sempre un po' di discussione su una manovra, soprattutto questa che è particolarmente complessa. Crosetto, che è un amico, forse ha segnalato un malessere, ha parlato a titolo ovviamente personale, ma penso che giovedì il Consiglio dei Ministri prenderà una decisione collettiva sulla manovra. Ci sarà probabilmente una delega alla riforma fiscale, ci saranno tanti altri provvedimenti, ne stiamo discutendo e ci stiamo lavorando proprio in questi giorni, quindi è una manovra particolarmente complessa e articolata. E per il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia il piano sul fisco disegnato da Tremonti è interessante, ma per dare un giudizio di merito bisognerà entrare nei dettagli e vedere dove si taglia. Vanno bene le aliquote IRPEF al 20, 30 e 40% e l'eliminazione graduale dell'IRAP. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito e proseguiamo sui temi economici. Il presidente francese Nicolas Sarkozy ha confermato che il governo e le banche francesi proporranno un nuovo piano che prevede la partecipazione dei creditori privati della Grecia al salvataggio del paese e ha detto di sperare che il piano venga adottato dall'Unione Europea. Nuovo record per il premio di rendimento pagato dai titoli decennali italiani rispetto al Bund tedesco. Lo spread ha raggiunto i 222 punti base, guadagnando 8 punti rispetto a venerdì. I dati Istat di giornata, retribuzioni contrattuali orarie ferme a maggio rispetto ad aprile, mentre hanno registrato un aumento dell'1,8% su base annua. Il rialzo tendenziale delle retribuzioni anche in questo mese è stato inferiore a quello dei prezzi al consumo. Sempre a maggio, intanto, ha fatto sapere ancora l'Istat, sono in attesa di rinnovo 36 accordi contrattuali per 4,5 milioni di dipendenti. L'inchiesta sulla cosiddetta P4, sentiamo le ultime di giornata. Dopo aver scandagliato le sue relazioni personali, adesso si guarda nelle tasche di Luigi Bisignani, anzi nei suoi conti correnti. A farlo la Procura di Milano, che ha aperto un fascicolo su alcune operazioni finanziarie ritenute sospette. L'input è arrivato dai PM di Napoli, che indagano Bisignani nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta P4, ma le due vicende non sono legate. Sta di fatto però che le disponibilità ai movimenti bancari del lobbista al centro delle indagini non si spiegherebbero con le sue entrate. E lui stesso a dire ai magistrati Curcio e Woodcock, che lo interrogano a marzo, che guadagna 12-13 mila euro al mese lavorando per la ILT. Come ci arriva? Bisignani inizia la carriera da giornalista, poi fa mettere a verbale ai magistrati: mi annoiai e andai a fare il direttore generale della sede romana del gruppo Ferruzzi per un paio d'anni, dice, e in quel periodo guadagnavo 300-400 milioni di lire l'anno, un bel salto di qualità e di stipendio. Dopodiché per lui si aprono le porte del gruppo Farina e la ILT. Non spiega però Bisignani frequenti versamenti in contanti sull'ordine dei 10.000 euro su un conto della Cassa Lombarda, visto che lo stipendio gli viene accreditato su un altro conto corrente, e non avrebbe spiegato nemmeno, fino ad ora, la provenienza dei 5 miliardi di lire fatte rientrare dall'estero con il condono fiscale del 2001. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intercettazioni, siete favorevoli alla loro pubblicazione sui giornali? È quanto vi abbiamo chiesto nel nostro sondaggio di oggi. Il 59% di voi ha risposto di sì, il 41% no. In tribunale a Milano l'udienza preliminare a carico del direttore del TG4 Emilio Fede, della consigliera regionale Nicole Minetti e dell'agente dei VIP Lele Mora, accusati di induzione e favoreggiamento della prostituzione anche minorile per le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. In diretta Flavia Carletti dell'agenzia di stampa Radio Cor. Sì, buongiorno a tutti. Qui in tribunale la notizia del giorno, diciamo, è che ci sono costituite parte civile in questo procedimento due ragazze che hanno partecipato a una di queste serate, in particolare quella del 22 agosto 2010. Si tratta di Ambra Battilana e Chiara Danese, che questa mattina sono venute in tribunale per la prima udienza del procedimento a carico di Fede, Minetti e Mora e hanno presentato una richiesta di costituzione di parte civile lamentando di essere state danneggiate sia a livello morale che di immagine che patrimonialmente da questo invito in questa serata ad Arcore, della quale loro quando sono arrivate hanno detto di essersi rese conto che in qualche modo si chiedeva loro delle prestazioni che non erano disposte a dare, quindi però poi il loro nome è stato associato a quello di altre ragazze, quindi loro lamentano appunto di essere state considerate al pari di alcune prostitute e quindi si sono costituite. Le difese dei tre indagati si sono opposte, la procura in qualche modo ha spiegato che poteva esserci un nesso tra la loro posizione e quelle che sono le accuse rivolte ai tre indagati e quindi il giudice per l'udienza preliminare Maria Grazia Domanico, dopo circa due ore di camera di consiglio, ha accolto la loro costituzione dicendo che in qualche modo dagli elementi preliminari che lei ha potuto esaminare un danno potrebbero averlo veramente subito. Grazie a Flavia Carletti dell'agenzia di stampa Radio Cor. È svolta sull'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce nel Frusinate, scomparsa il 1 giugno 2001 e ritrovata morta due anni giorni dopo in un bosco della zona. 10 anni per una svolta e ora potrebbe essere un test del DNA a indirizzare gli inquirenti verso l'assassino di Serena Mollicone, la 18enne di Arce, scomparsa il 1 giugno 2001 e ritrovata uccisa due giorni dopo in un boschetto di Anitrella, sempre nel Frusinate. Il procuratore capo di Cassino, Mario Mercone, ha iscritto nel registro degli indagati 5 persone. Ci sono quelli attorno a cui l'inchiesta ha sempre ruotato: l'ex fidanzato Michele Fioretti, 38 anni, e la madre di lui. E ancora l'ex maresciallo dei carabinieri Francesco Mottola, il figlio Marco e un altro carabiniere Francesco Suprano. Tutti saranno sottoposti agli esami richiesti dalla procura per poter avere un confronto con le tracce ritrovate sul corpo della ragazza. Dalle prime ore del ritrovamento del corpo, molte ombre si erano addensate sul maresciallo dei carabinieri, allora comandante della stazione di Arce. Uno dei brigadieri della caserma, Santino Tuzzi, era anche stato ascoltato come persona informata sui fatti, ma poi si era tolto la vita. Agli inquirenti aveva raccontato che era di Piantone quando Serena si era presentata dai carabinieri. Qualcuno dall'interno aveva dato l'autorizzazione a farla entrare e lei si era avviata nell'appartamento del comandante. Una visita prima della scomparsa. A chi e per dire cosa? 10 anni dopo la pista si riapre. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'annuncio ieri al TG1 in un'intervista a Vincenzo Mollica. Vasco Rossi dice: mi dimetto da rockstar. In realtà già in passato aveva fatto annunci simili, poi disattesi. Oggi in rete alcuni fan invitano Vasco a ripensarci, altri dicono invece che davvero era ora. Gianluca Nicoletti, buongiorno. Secondo te possiamo credere a queste parole o semplicemente si tratta di una mossa pubblicitaria azzeccata la sua? Beh, una mossa azzeccata perché ne parliamo io e te questa mattina, non essendo una di quelle notizie travolgenti. Tu pensa poi, il più patetico di tutta questa vicenda, che lui per dare questa notizia, che la grande rockstar si ritrae dalle folle, usa come veicolo quel giovane scavezzacollo, quel campione di gioventù bruciata che è Vincenzo Mollica. Va da Vincenzone Mollica e dice: basta, non faccio più la rockstar. Già questo dà segno di questa ultima e patetica maniera per proclamare una sua uscita che già era nei fatti. Uno non può essere una bandiera di trasgressione, di vita bruciata, di droga, di esperienze estreme e poi continuare a 60 anni a farlo, perché la vita bruciata toglie la voce. Vasco Rossi non emette più suoni comprensibili e quindi logicamente è finito. Dovrebbe reinventarsi un po'. Sì, ma Albano canterà fino alla fine dei suoi giorni, idem per Julio Iglesias. Hanno un genere che comunque permette, anche in età avanzata, di continuare a raccontare le loro fantastiche vicende d'amore, che l'amore può essere anche proclamato nel momento in cui l'età non permette più di praticarlo, ma la trasgressione no. È patetico un vecchio che parla ancora di trasgressione e si dice una rockstar. Grandi rockstar sono continuate ad esistere, ma hanno modificato un po' il loro personaggio. Lui va in giro lì col cappellino, con la giacca di cuore, corridoio, sotto c'ha la cintura gibot e magari anche il catetere. Non può andare avanti così. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato di quanto sta accadendo in Piemonte. Fra botte e lacrimogeni apre il cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Le ruspe sotto scorta battono le barricate dei Notav, una trentina i feriti. A 10 anni dall'omicidio di Serena Mollicone ci sono 5 indagati, fra loro anche l'ex fidanzato e la madre. Saranno sottoposti al test del DNA. E ripartiamo dalla strage di Ustica. Oggi viene ricordato quanto accaduto 31 anni fa nei cieli italiani. Forte il monito del presidente Napolitano. Era il 27 giugno 1980. Alle 20.59 il DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo scomparve dai radar. A bordo 81 persone. Il giorno dopo, dal mare nei pressi dell'isola di Ustica, iniziarono a riaffilare i primi rottami e i corpi delle vittime. In questi 31 anni ci sono state inchieste, depistaggi, polemiche. Polemiche che ancora oggi non sono sopite. Alla vigilia dell'anniversario, scontro fra il PD bolognese e il sottosegretario Giovanardi sulla ricostruzione della strage fatta su un dépliant distribuito al Museo per la Memoria di Ustica. Giovanardi sostiene, citando una sentenza della Cassazione, che l'aereo precipitò per una bomba a bordo. Nel dépliant, che sostiene la tesi dei parenti delle vittime, si dice che il DC-9 fu abbattuto a seguito di un'azione di guerra. Giovanardi polemizza poi anche con Andrea Purgatori, il giornalista che si è sempre occupato del caso e che ieri ha ribadito come nella vicenda siano coinvolti 4 aerei militari. Chiedono ancora di fare chiarezza sia il capo dello Stato che il presidente del Senato Schifani, che parla di uno degli episodi più terribili e ancora oscuri della recente storia. Il presidente Napolitano, in un messaggio ai parenti delle vittime, ha detto che ogni sforzo deve essere compiuto, anche sul piano internazionale, per giungere finalmente a conclusioni che rimuovano le ambiguità, i dubbi e le ombre che ancora oggi circondano quel tragico fatto. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E della strage di Ustica torneremo a parlare in Italia in controluce dopo questo GR24 all'incirca alle 13.30. Nei prossimi giorni la Freedom Flottiglia cercherà di rompere il blocco navale di Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, a un anno di distanza da un tentativo simile che costò la vita a 9 attivisti. Romolo Napolitano ha sentito Pino Marella del coordinamento nazionale di Freedom Flottiglia in Grecia proprio per imbarcarsi nella spedizione. Alcune navi della flotta sono già partite, tipo la francese e altre navi di cui abbiamo notizia, però quella italiana ancora non è partita, tra l'altro non è solamente italiana, è una nave italo-olandese, la Stefano Chiarini, però dovrebbe essere comunque nei prossimi giorni, massimo 2 o 3 giorni, non di più. Cosa porterete a Gaza? Soprattutto medicinali, e chiaramente soprattutto questa iniziativa è atta a rompere il blocco, soprattutto più che portare aiuti umanitari consistenti. Vi aspettate un attacco? Cioè, noi ce l'aspettiamo un attacco sicuramente, chiaramente le minacce, un attacco, non lo so, un inferno, non lo so il tipo di intervento che sarà fatto, però visto che ormai parlano a ruota libera generali, capi di governo, lo stesso Ban Ki-moon che dice a noi praticamente di desistere, però a Israele non impone di rispettare tutte le risoluzioni dell'ONU da 40 anni a questa parte. In caso di attacco cosa farete? Noi per la nostra provenienza, per la nostra storia, resistenza passiva, poi alla fine cosa si può fare di fronte a un esercito così armato e una flotta così sgarrupata? Torniamo in Italia per una nuova operazione in Liguria contro la 'Ndrangheta. Spiegano gli inquirenti che mesi di intercettazioni, pedinamenti e appostamenti hanno svelato gerarchie, riti, sfere di influenza e interessi illeciti ruotati attorno ad una cosca regina trapiantata tra le province di Genova, La Spezia ed Imperia. 12 arresti sono stati eseguiti all'alba dai carabinieri del ROS, per tutti l'accusa e associazione dell'incuri di stampo mafioso. L'ennesima dimostrazione di come l'Ndrangheta abbia ormai strutturato le sue propaggini in Liguria, in una fitta rete di connessioni pilotate dalla Calabria, nel tessuto sociale e produttivo di una regione che fino a poco tempo fa si sentiva immune da questo tipo di infiltrazioni. Gli arresti di stamane sono un seguito dell'operazione crimine che luglio scorso portò in carcere 300 persone tra la Calabria, la Lombardia e Genova, dove furono arrestati un commerciante di frutta e un piccolo imprenditore ritenuti referenti locali della cosca. Dalle indagini è emerso che l'organizzazione provvedeva a tutto, dal controllo della vita privata degli affiliati al mantenimento dei detenuti in carcere attraverso i proventi del racket e dell'usura. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Anche nella notte roghi nelle strade di Napoli, alle fiamme montagne di spazzatura e sull'ennesima crisi dei rifiuti, Paola Anania ha intervistato il giornalista Nello Trocchi, autore insieme a Tommaso Sodano, attuale vice sindaco di Napoli, del libro La peste su spazzatura e malaffare in Campania. La crisi è risplosa proprio adesso, uno perché le discariche si sono esaurite, due perché nonostante nel 2008 in molti credevano e annunciavano la fine della crisi, non si sono costruiti in questi anni gli impianti che potevano consentire di uscire definitivamente dalla crisi strutturale. C'è un'anomalia, una coincidenza strana che ci raccontavano nei giorni scorsi alcuni operatori del settore, che con l'insediamento della nuova giunta comunale c'è stato un blocco generalizzato dei siti, però c'è una carenza strutturale. L'enorme dramma è l'assenza di un sito dove smaltire. Io faccio sempre l'esempio di Roma, anche Roma fa la differenziata sotto il 20%, ma gode dell'immensa cloaca rappresentata da Malagrotta. Qui la discarica dovrebbe essere messa in funzione dalla istituzione provincia, secondo la provincializzazione dei rifiuti, ma non l'ha ancora localizzata e individuata, e questo ovviamente crea un caos enorme e la mancanza della possibilità di smaltire. Violenza sessuale di gruppo per 4 mesi su 2 ragazzine di 12 e 14 anni. Arrestati 2 minorenni, un 17enne ed un 16enne. È accaduto a Villa Ricca, in provincia di Napoli. Il 16enne è figlio di una persona ritenuta affiliata al clan Ferrara Cacciapuoti. Negano la violenza sessuale, 3 ragazzi invece denunciati a piede libero dai carabinieri per aver abusato in gruppo nei confronti di una 15enne lungo la spiaggia dell'Arzilla a Fano nella notte fra sabato e domenica. Ed ora una piccola buona notizia che ci porta in Romania. Practic prin acest proiect reușim să punem la oaltă 3 categorii de favorizate ale societății românești. È il tema dell'abbandono che si tocca con questo progetto, un tema tanto sentito in Romania. I vecchi, i disabili, i bambini ne sono spesso vittime. Laurenzio Vasilescu è il direttore di Save the Dogs Bucarest, la costola italiana di questa ONG che da mesi lavora a un progetto piccolo e incredibile: portare degli asinelli abbandonati dai bambini di un orfanotrofio di Bucarest. Cavalcarli, prendersi cura di loro, è questo che farà stare bene i bambini. È una storia buona questa, ce la spiega un po' Sara Turetta di Save the Dogs Italia. Si tratta del primo progetto di onoterapia, quindi di terapia che utilizza gli asinelli, a favore dei bambini orfani e portatori di handicap del centro Donorione di Bucarest. La Romania, come ben sappiamo, ha una situazione di infanzia abbandonata e di bambini disabili purtroppo in stato di abbandono molto grave, e quindi era importante portare questo tipo di terapia innovativa anche in Romania. Quanti sono i bambini che parteciperanno a questo progetto? Ci sono 18 bambini con handicap dal grave al molto grave. Sono almeno altri 70-80 ragazzi, soprattutto affetti da autismo, che vengono da orfanotrofi del circondario di Bucarest e che verranno qua a visitare ogni settimana. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di scuola oggi, terza ed ultima prova scritta dell'esame di maturità. Jacopo Matano, buongiorno. Buongiorno, sì, è stato il giorno della terza prova per i 496.000 studenti che affrontano gli esami di maturità. Per tutta la mattina i ragazzi si sono cimentati con le domande del cosiddetto quizzone, un pacchetto di test che, a differenza delle due prove precedenti svolte la settimana scorsa, non è predisposto dal Ministero ma dalle varie commissioni esaminatrici. Un sondaggio del sito studenti.it ha scoperto che per il 47% dei maturandi quella di oggi è la prova più difficile. Dunque sentiamo com'è andata dalle voci di alcuni ragazzi fuori dal liceo romano. È stato un po' difficile, ma ho scritto tutto. La più difficile era sulle stelle di geografia astronomica. Com'è andata la terza prova? Spero bene, non lo so. Ci stanno delle materie in cui sono andata veramente malissimo. Tipo? Tipo matematica, in cui ho scritto direi 5 righe su 20. Adesso manca solo lo scoglio dell'orale. Sono l'ultima delle ultime. E stai studiando già? No, ma che, mi prendo 2 giorni di pausa e poi inizio a studiare. E finiti gli esami, assieme agli studenti in vacanza andrà anche forse l'attuale sistema delle domande differenziate. Il ministro Gelmini ha infatti annunciato che questa terza prova potrebbe essere sostituita già dal prossimo anno da un esame unico per tutti a cura dell'Invalsi. A te. Grazie a Jacopo Matano. E parliamo invece ora di sport. Buenos Aires messa a ferro e fuoco dai Barra Bravas, gli hooligans argentini, dopo la retrocessione del River Plate. Carlo Genta. Beh, più che di sport, di guerriglia, Piera. Perché sì, infatti, lo che sport è? Sì, sport dei cazzotti e dei tumulti. Ma lo sport è che il River Plate, che è uno dei club più titolati del Sud America, dopo 110 anni per la prima volta nella sua storia retrocede. È successo ieri sera. 1-1 in casa col Belgrano dopo aver perso 2-0 in questo doppio spareggio per non retrocedere. Dunque River Plate che retrocede, i tifosi del River Plate che giocava in casa che ne combinano di tutti i colori, prima dentro lo stadio e poi fuori, 68 feriti secondo l'ultimo bilancio e il tassametro continua a correre, 25 dei quali agenti, arresto di 50 persone, 2200 poliziotti che erano stati schierati a presidio dell'impianto non sono stati sufficienti per arginare questa totale follia. E adesso i danni sono ancora da calcolare e c'è lo stadio Monumental di Buenos Aires che tra l'altro tra 4 settimane ospiterà la finale di Coppa America che inizia il 1° di luglio proprio in Argentina, che è stato temporaneamente chiuso. C'è un'indagine, si tratta di accertare se non fossero stati venduti più biglietti dei 40.000 della capienza del Monumental. Si dice fossero 60.000 dentro quello stadio, dentro il quale e intorno al quale è successa davvero la guerra nella notte. Piero. Grazie Carlo Genta, ed era la nostra ultima notizia di questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Mauro De Angeli. Prossimo GR24 alle 14. GR24 Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.